Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. In realtà oggi continueremo a parlare della collaborazione fra Pixar e Disney con il loro terzo film, rilasciato nel 2001, ovvero Monsters & Co. La trama è ambientata in un mondo di mostri, nella città di Mostropoli, che ricava l'elettricità necessaria dalle urla dei bambini umani, accessibili grazie ad aziende munite di porte speciali che li conducono nelle loro camere per spaventarli. I protagonisti sono James Sullivan e Mike Wazowski, due colleghi mostri specializzati nel terrorizzare i bambini. Ai mostri è severamente vietato entrare in contatto con i bambini, perché convinti che possano infettarli e far saltare loro la copertura. Ma Sullivan, a causa di un equivoco, fa entrare da una porta speciale una piccola bimba, che lui chiamerà Bo. Sullivan e Mike cercano in tutti i modi di rimandare la bambina nel suo mondo, senza riuscirci perché lei continua a seguirli divertita, dato che non è spaventata. Purtroppo però la bambina viene avvistata all'interno della centrale, e Mike e Sullivan sono costretti a scappare, non riuscendo a trovare la porta speciale che li riporterebbe in camera della bambina. La porta infatti è stata presa da Randall, un altro mostro e rivale dei protagonisti, che è intento a rapire i bambini per estrarre le loro urla senza vincoli, e voleva proprio utilizzare la bambina come cavia. Scoperto il suo piano, Mike e Sullivan cercano di smascherarlo al direttore della centrale, ma anche lui è invischiato in questo progetto ed esilia i due sull'Himalaya. I protagonisti però riescono ad uscire e a consegnare alle autorità Randall e il direttore, e alla fine riportano la bambina nel mondo degli umani, anche se i due protagonisti sono molto dispiaciuti dato che si erano affezionati a lei. I due amici però hanno capito una cosa importante, ovvero che in realtà le risate dei bambini sono una fonte di energia molto più potente che le urla spaventate, e quindi Sullivan, come nuovo direttore, rivoluzionerà il sistema di produzione della centrale. Il film è stato molto apprezzato dal pubblico, con un incasso di 562 milioni di dollari, a fronte di un budget molto dispendioso di 115 milioni, dato che le animazioni in 3D dei mostri sono state molto minuziose, per esempio la pelliccia di Sullivan è stata curata pelo per pelo. Per tutti questi motivi, il film vanta vari premi e candidature agli Oscar, e rivelerà l'accoppiata Pixar-Disney ancora una volta vincente. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.